Giovedì 10 settembre del 2015, sulla radio che dal 1977 va avanti senza pubblicità e senza padroni, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Per contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001. Da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185, Roma. Per quanto riguarda le altre forme di sottoscrizione telematica, potete consultare il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è Sostieni, appunto, per le altre modalità online. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito c'è ascolta la diretta per lo streaming, appunto. E poi, per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica per la trasmissione di cinema che va in onda tutti i giovedì dalle 14 alle 15 è visionari@ondarossa.info, e tutte le informazioni sulla scaletta le trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. Eccoci con Fabio Mancini di Doc 3 per parlare degli ultimi appuntamenti della rassegna. Fabio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti, ben ritrovati anche a voi. Allora, ci sono degli appuntamenti che hanno cambiato giorno, perché prima erano il mercoledì, se non sbaglio, adesso invece sono passati al giovedì, e quindi ne possiamo parlare proprio in trasmissione, che è il giovedì d'altronde. Esatto. Allora, quali sono questi ultimi appuntamenti, Fabio? Allora, partiamo da stasera, proprio 5:30, avremo un documentario che, come Doc 3, abbiamo seguito per molto tempo. L'avevamo trovato quasi 2 anni e mezzo fa, ce ne eravamo veramente innamorati. È stato finito, ha già fatto il giro dei festival, dove è stato premiato praticamente ovunque, insomma. E si tratta di The Queen of Silence, ed è un documentario di una giovane regista polacca, al suo primo documentario. Ed è un documentario veramente particolare, perché riesce un po' a stravolgere quelli che sono un po' i luoghi comuni su un tema come può essere la vita e l'interazione di un campo rom in una cittadina non grandissima in Polonia. La particolarità che di questo documentario è che è tutto incentrato su una bambina giovanissima, sordomuta, che si chiama Denisa, e la particolarità è anche stilistica. Non è solamente un documentario, il racconto di Denisa, del suo handicap, della possibilità di avere un impianto che le permetterà di sentire e quindi poi di parlare e di interagire con i suoi amici e con la sua famiglia, ma è anche un musical. In alcuni momenti si ferma il documentario propriamente detto per partire per una dimensione completamente diversa. Questo perché Denisa ama moltissimo i film di Bollywood. Nella sua testa lei è già una star, canta continuamente, quindi la regista è riuscita a riunire questi due livelli, interiore e reale, in una maniera che a noi è sembrata speciale proprio. Bene, e questo è il primo appuntamento quest'oggi. E i successivi? Successivamente abbiamo il 17 settembre, quindi giovedì prossimo, avremo Stato interessante di Alessandra Bruno, che è un viaggio in Italia in qualche modo, e il titolo già dichiara quello che è il tema è quello dei figli di donne, ma anche uomini, di coppie che arrivano a una certa età in cui questo desiderio si scontra con altre difficoltà, con scelte fatte o scelte non fatte, e provoca in qualche modo delle rivoluzioni, quale sia la scelta, sia consapevole, sia invece indotta da altre da altre pressioni che possono essere lavorative o altro. Rimane uno snodo molto importante nella vita delle coppie, degli uomini, delle donne. Il documentario è molto affronta con pochissimi filtri queste storie, perché veramente appartiene a un privato molto, a volte anche doloroso. Mm-hmm. E quindi siamo stati molto contenti che le persone che hanno partecipato abbiano voluto regalare questo momento così complicato, che secondo me è un tema molto più ampio di quanto possiamo pensare. Tra l'altro, appunto, lei sarà spero probabilmente ospite in trasmissione al telefono, quindi ci racconterà un po' di questa sì, storia. Sì, lo farà lei. Mm. Benissimo, sono molto contento. Tra l'altro ha un tappeto musicale, una colonna sonora fatta apposta per il documentario, secondo me straordinaria, perché spesso invece la musica non è così partecipe. In questa serie di Doc 3 abbiamo voluto che invece fosse coprotagonista a tutti gli effetti anche negli altri documentari. E per andare avanti volevo dirti che c'è una piccola rivoluzione, perché si è aperta una possibilità per lo slot di avere una coda invece alla fine dell'anno. Di questo noi siamo molto contenti, in qualche modo, di poter essere riposizionati anche su un periodo che sarà quello delle feste di Natale. E quindi ci terrei a darti gli appuntamenti. Io direi che per la fine dell'anno facciamo in tempo a sentirci. Spero proprio che avremo modo di sentirci, certo. Benissimo, la cosa importante, ecco, che avremo il documentario di Costanza Quatriglia, 87 ore. È qualcosa di cui presto si comincerà a parlare in maniera molto importante. È un documentario che abbiamo seguito sin dall'inizio con grande passione, con molte difficoltà, a cui teniamo moltissimo, e intanto ve lo dico, ecco, ci sarà, e poi ne sentirete parlare prestissimo, e quello sarà il 28 di dicembre. Bene, è molto importante che abbia quella data. Bene, quindi sono per questo ultimo passaggio di stagione due titoli, giovedì e il giovedì successivo. A questo punto, per chi è all'ascolto, ti chiedo quali sono i criteri di scelta di Doc 3 per tutta la rassegna che avete messo in campo per questo 2015. Sì, guarda, sono abbastanza, in questo caso li abbiamo scelti e sono venuti quasi da soli questi titoli, ci sono venuti abbastanza incontro. Abbiamo sempre voluto avere il massimo del respiro e la massima possibilità di spettro narrativo rispetto a tematiche che fossero politiche, sociali, relazionali, ma quello che volevamo, e questo è importante per uno specifico televisivo di messa in onda, è che ci fosse un protagonista forte che potesse veramente veicolare tutte queste cose in maniera quasi inconsapevole. Abbiamo avuto Totonel, che è un bambino straordinario in Romania, che scopre la possibilità di una vita diversa attraverso la danza. Abbiamo avuto i ragazzi bravissimi del documentario di Coppola, con presente Mastro Andrea, che mettevano in scena Romeo e Giulietta al Campo Nomadi di Tor de' Cenci, e in qualche modo abbiamo lavorato su questo. Abbiamo cercato un personaggio che potesse trascinarci in una storia molto grande. E quindi siamo molto molto molto soddisfatti. Bene, allora io ti chiedo a questo punto i riferimenti internet per la programmazione, e poi ci diamo appuntamento a dicembre. Assolutamente sì. Allora, ovviamente la pagina Facebook, che è sempre aggiornata, di Doc 3, e con eventuali variazioni di orario, informazioni, approfondimento per quelli che sono i documentari. La pagina che è invece www.doc3.rai.it, in cui moltissimi titoli sono ancora visibili in streaming, e questa secondo me è un'occasione molto importante anche per differenziare i player, ma lo stesso ricondurre il pubblico ha la possibilità di vederli, quindi sono ancora lì. Chi non ha fatto in tempo a vederli in onda può vederli comodamente, e invito tutti a farlo, insomma. Un abbraccio, Fabio, e a presto. Un abbraccio a voi, buon lavoro e buona trasmissione. Ciao, grazie. Ciao. Fabio Mancini di Doc 3 sugli ultimi due appuntamenti della stagione, in vista degli appuntamenti invece che ci saranno in programma per dicembre. In collegamento con Simone Ferretti del Festival Resistente, che sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Praticare e promuovere cultura indipendente al Cassero a Grosseto domenica 13 settembre. Simone, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti e buona giornata. Allora, un incontro che nasce da l'anima del Clorofilla Film Festival, cioè Simonetta Grechi, e mette insieme un po' di persone, tra gli altri Elio Germano per quanto riguarda Artisti 607, poi ci sarai tu, ci sarò anche io per parlare dell'esperienza, insomma, qui a Radio Onda Rossa del teatro e del cinema di Visionari, e poi ci sarà Filippo Gatti, il musicista Filippo Gatti, che è un indipendente rigoroso, e insomma un bel incontro prima del concerto delle Bestie Rare. Allora, Simone, parliamo un po', visto che tu ti occupi del Festival Resistente, accenniamo un po' alla storia di questa rassegna. Da 17 anni ci occupiamo di promuovere attività e cultura all'interno del contesto della realtà grossetana. Lo facciamo con un festival che si chiama Festival Resistente, e lo facciamo tramite un circolo Arci che si chiama Circolo Arci Festival Resistente. Un gruppo di ragazzi, di studenti, che durante l'attività nelle scuole superiori hanno costruito un collettivo antifascista, associazione, e che ogni anno si impegna non solamente nel tramandare il ricordo rispetto alla guerra al nazifascismo, ma anche a muovere quotidianamente una battaglia concreta e culturale verso tutti i nuovi fascismi che si affacciano. Ecco, proprio a questo proposito, ci racconti un po' degli obiettivi su cui avete focalizzato l'attenzione rispetto ai nuovi fascismi? Sì, noi ci siamo impegnati soprattutto a riprendere prima di tutto tutte quelle esperienze che ci sono e sono, diciamo così, esperienze resistenziali. Penso dalla resistenza di chi si occupa in campo culturale di una battaglia contro la SIAE, per esempio, che produce, o altri momenti culturali fuori dai grandi circuiti e quindi vuole adeguarsi all'omologazione. Sono corsi difficili che passano da chi costruisce una cooperativa per strutturare in un terreno agricolo una cooperativa sociale ripartendo dal basso, anche percorsi che in qualche modo prevedono le varie attività sulla questione dei diritti, e in questo senso un'attività molto forte che viene centrata in rapporto stretto con le associazioni del territorio, quindi con l'AMPI, ma non solo. E sono i fascismi, soprattutto ti sento nuovamente molto male. Ti dicevo, ricostruire in questo modo un legame con il territorio e soprattutto con la memoria storica, ma allo stesso tempo un legame che va a guardare tutte quelle che sono le nuove forze che, diciamo così, in qualche modo si richiamano alla destra storica, che se nella nostra realtà non sono strutturate, ci occupiamo anche di cercare di promuovere sempre più fortemente la questione dei diritti. Penso a tutta la battaglia sulle coppie di fatto, oppure tutta la questione che stiamo portando avanti sul tema dei migranti. Senti, mi dicevi della vostra esperienza di collettivo studentesco antifascista che poi ha dato vita al Festival Resistente. Ecco, esistono anche, dicevi, anche delle cooperative agricole e altri tipi di realtà che dal basso si auto-organizzano per promuovere forme di cultura, ma anche di pratica quotidiana differenti, indipendenti? Sì, sai, cioè, nel senso, sicuramente il territorio della provincia di Grosseto vive le storiche relative all'associazionismo. Pensare che in una realtà come la nostra non esista una vera e propria casa del popolo, come si intende da tutte le altre parti della Toscana. Sicuramente è una realtà che piano piano si sta strutturando e sicuramente sei di nuovo sparito. Mi spiace, dicevo, piccole realtà che ovviamente provano a dire questa un è veramente è molto complicato, però non riesco proprio a sentirti. Mi dispiace. D'altronde la linea è quella che è. Pensavo che la rete fosse migliore. Ci vediamo. Allora, a questo punto ci diamo appuntamento al Cassero a Grosseto domenica 13 settembre a partire dalle ore 21. Ci dai riferimenti internet per quanto riguarda la vostra attività di Festival Resistente? Il sito è www.festivalresistente.it. Bene. Potete trovare le scorse edizioni, o se no ovviamente siamo su Facebook e su tutti gli altri social network. Un abbraccio Simone, a domenica. Un abbraccio e scusate per il collegamento. Ciao. Ciao. Simone Ferretti del Festival Resistente, tra i relatori dell'incontro Praticare e promuovere cultura indipendente al Cassero a Grosseto domenica 13 settembre. Purtroppo la linea era un po' disturbata e dall'isola del Giglio era un po' complicato. Siamo in collegamento con Marco Bellocchio, regista del film Sangue del mio sangue, uscito in sala dopo la presentazione veneziana ieri 9 settembre. Marco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, pronto? Sì, no. Ci senti? Io sono su un treno e sento male, ma mi hai fatto una domanda? No, intanto ti davo il ben ritrovato a Visionari su grazie. Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, poi per chi ci ascolta, potresti descriverci in poche parole Sangue del mio sangue per appunto per chi vuole vederlo al cinema? Ma è molto difficile su un treno dove si parla fai male. No, vabbè, è la storia di una monaca che viene imprigionata, siamo nel 600, perché ha provocato il suicidio del suo amato, del suo confessore. Arriva poi il fratello gemello che in qualche modo vuole vendicare la morte del suicida, però lei non confessa mai le sue colpe e quindi viene condannata ad essere murata viva. Un po' è ispirata dalla vicenda della monaca di Monza, però con un finale capovolto che io non ti racconto. Mentre la monaca di Monza, una volta liberata, poi diventa una figlia di santa, devota, ubbidiente nei confronti della Chiesa, il finale di Sangue del mio sangue è diverso, è molto molto diverso. Poi c'è anche una parte che riguarda il presente, sempre il tutto è ambientato nella stessa prigione di Bobbio e nella stessa città di Bobbio, e basta. Senti Marco, come nasce il tutto, quest'idea del film, il progetto? Ma nasce da un laboratorio, nasce dalla mia esperienza del laboratorio bobbiese, in cui ogni anno abbiamo cercato di fare un corto. Da questo corto che facemmo 5 anni fa, poi dopo è venuta la mia idea, come dire, di fare un prequel e poi anche un episodio nel presente. Tra il tutto perché c'era la possibilità di farlo a Bobbio, in questa realtà bobbiese, in questa familiarità. Il sangue del mio sangue non riguarda solo il fatto che vi abbiano lavorato anche molti miei parenti, ma perché insomma a Bobbio tanti anche attori che io conosco, che mi sono familiari, insomma questa è stata la possibilità, un po' molto libera, molto divertente, molto, in questo senso si è lavorato con entusiasmo, senza avere l'ossessione, il fantasma del successo, del pubblico. Sì, adesso è uscito, sì, è vero che qualcuno lo vada a vedere, però in questo senso è stato un film molto fatto senza stress. Senti Marco, il potere della Chiesa Cattolica e torna come in altri tuoi importanti film. Ecco, come ti relazioni a questo potere? Ma il potere della Chiesa Cattolica, io parlo di un potere che ormai è passato, un potere, insomma, nel 600 la Chiesa Cattolica aveva un potere assoluto su tutti, di vita e di morte. Non si poteva essere, non è che uno potesse dichiararsi ateo, se dichiarava veniva subito messo in prigione, se non bruciato, insomma, adesso il discorso è molto più articolato, molto più democratico, molto più esiste un potere che però è un potere condiviso con altri poteri. Quindi io nel film c'è un atteggiamento assolutamente non di voler condannare, si condanna da sé, l'inquisizione, la tortura, sono tutte cose che si condannano da sé, non c'è bisogno che ci sia io a condannarle. Senti, rispetto alla tua attività laboratoriale, hai avuto modo quotidianamente di relazionarti a giovani che approcciano al cinema. Ecco, come vedi lo stato delle cose rispetto alle nuove leve? Ma c'è sempre un grande entusiasmo nei giovani, i mezzi per esprimersi sono totalmente cambiati. Adesso si potrebbe dire che tutti hanno la possibilità tecnica di fare i loro film, di esordire. Tu sai che gli esordi sono incredibilmente moltiplicati nell'elenco dei film di esordi, quest'anno ne ho letti 46, un numero spropositato, se ti pensi quando che ho esordito io ero solo io in quell'anno o qualcun altro, ecco. Sì, sì. Proprio perché tutto, e questo è un aspetto positivo, un aspetto democratico, tutto si è fortemente democratizzato, nel senso che si possono fare dei film con un principio e una fine, con dei budget incredibilmente bassi. Ancora una volta noi ritorniamo alle belle idee, alle belle immagini, alla libertà, all'inventiva, ecco. Ecco. Questo è una possibilità, ecco. Non dico che poi non è detto, è anche sempre più difficile fare dei film originali, poiché tutti li fanno, c'è come un'inflazione di immagini talmente grande che intuare, scoprire, inventare qualcosa di originale non è che sia più difficile che il passato, ma certamente lotti contro questa affogamento in miliardi di immagini che tutti gli esseri umani hanno naturalmente il diritto di fare, ecco, non è che vada limitata questa libertà, però di fatto è così. Ecco Marco, parlavi di libertà, originalità, anche sì, facendo riferimento al tuo esordio con Pugni in tasca, e ecco, ti chiedo, che all'epoca ebbe un effetto dirompente, erano altri tempi, sì. Ecco, ma trovi ogni tanto, hai sentore di qualche opera di giovani che abbia comunque un effetto dirompente rispetto all'approcciarsi alla realtà? Questo tu devi chiedere alle critici, ma in ogni festival trovi sempre qualche giovane. Ma è naturale che ci sarà, naturalmente che si esprime in un linguaggio diverso, con uno stile diverso, però io credo che nonostante questa orgia malsana di immagini che tutti fanno e si fanno, ci siano sempre in giro per il mondo dei giovani solitari che ci faranno vedere delle cose belle ed originali. Senti Marco, allora volevo chiederti, è sempre più difficile rispondere perché sono in mezzo a un treno, quindi... Volevo chiederti in quante copie è uscito Sangue del mio sangue, e poi se sei già impegnato anche in nuovi progetti cinematografici. Sì, ho finito le riprese del libro di Gramellini Fra i bei sogni, di cui inizierò il montaggio proprio a partire dalla prossima settimana. Quando sarà finito non lo so, però è questo, diciamo, il mio traguardo adesso. Poi per altri film vedremo. Va bene. Senti, in quante copie è uscito Sangue del mio sangue? Questo non lo so, penso che sia uscito in un numero di copie limitate, giusto che sia così, ma tra le 50 e le 90 copie, mi dicevano dalla 01. Non sono però poche. È già uscito ieri, è già uscito ieri, oggi se ne aggiungeranno delle altre, non ti so dire, dovresti chiederlo o all'ufficio stampa o alla 01. Benissimo. Allora Marco, vabbè, io ti ringrazio, magari ci risentiremo per il nuovo film. Va bene, grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Marco Bellocchio, regista del film Sangue del mio sangue, uscito in sala ieri, mercoledì 9 settembre. Oh, nonostante sia impegnato nelle riprese del nuovo film, ce la facciamo a fare un collegamento con Davide Barletti, che è coregista del documentario Il paese dove gli alberi volano, presentato alla 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Davide, ben ritrovato. Ciao, ciao, ciao a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao Federico. Allora, grazie di essere qui con noi. Il paese dove gli alberi volano, un titolo ad effetto, per parlare di cosa, Davide? Ma innanzitutto per parlare di un'utopia realizzata, che è una delle cose più belle, no? Perché sicuramente quando si parla di, quando si parla di utopie, la parola stessa, insomma, poi da, non lascia, diciamo, poi se si realizzano o non si realizzano l'utopia. Ecco, noi quello che pensiamo è che abbiamo raccontato un'utopia realizzata, ovvero il sogno di un uomo, di altri uomini, di altre donne, in questo caso di Eugenio Barba e delle sue attrici e dei suoi attori, che sono riusciti a costruire in 50 anni un'utopia, quello di una fortezza nella provincia danese, nell'estrema provincia danese, di una fortezza, come lui ama definire, senza mura, che poi è l'Odin Theater. Stiamo parlando appunto di Eugenio Barba, una delle figure più importanti del teatro mondiale, una persona che ha rivoluzionato nel vero senso della parola il linguaggio teatrale, e questo film celebra questi 50 anni di utopia, questi 50 anni di questa fortezza che è stata una specie di caravanserraglio per artisti, intellettuali, gente comune, indios, sparsi per il mondo, che hanno visto sempre Eugenio Barba come una specie di faro. Senti, ecco, quali sono, per chi ci ascolta, magari anche per i più giovani, le caratteristiche peculiari di questo modo di fare teatro? Beh, innanzitutto questa grande disciplina e rigore che nel teatro di Barba e dell'Odin è una delle cose che vengono fuori, e questo grande lavoro sugli attori, e questo grande lavoro, quello che poi è stato, diciamo, il training, no? nel lavoro, proprio nel lavoro dell'attore, questa quindi grande preparazione tra virgolette quasi militare, ma militare nel senso quasi guerrigliero, no? Quasi questa, come dire, dedizione degli attori alla causa, in questo caso alla causa del teatro, ma soprattutto l'Odin si può ricordare anche come il padre o la madre del baratto, del teatro inteso come baratto, no? Quindi il teatro tra virgolette anche di strada, ma in qualche modo il baratto culturale, cioè io do qualcosa a te se tu dai qualcosa a me. Le esperienze dell'Odin Theater negli anni 70 nelle selve amazzoniche o nei paesini del sud della Puglia, dove appunto è nato questa forma di baratto culturale con le popolazioni locali, l'Odin andava, rimaneva in residenza 5-6 mesi in quel luogo a preparare uno spettacolo e in qualche modo offriva uno scambio con le popolazioni locali. Ecco, io penso che sono tante poi la rappresentazione della morte, del sacro, sono tante le cifre stilistiche dell'Odin. Poi forse questa domanda lo dovresti fare di più al co-regista mio, che è Jacopo Quadri, che sicuramente è molto più esperto di teatro e di linguaggio teatrale di me, insomma. Sì. Io, come dire, sono affascinato ed ero affascinato dalla figura di Barba più per le ragioni che ti ho detto, no? Sì. Di questo senso quasi politico dell'intendere e la maniera di fare teatro, e poi perché essendo pugliese io e Barba era una delle figure che nella nostra terra quasi leggendarie. Senti, come avete approcciato la materia? Come vi siete mossi per realizzare il documentario? Ma noi eravamo partiti in realtà con le idee abbastanza confuse, nel senso che Eugenio aveva consentito la nostra presenza a Holstebro, che è la sede dell'Odin, durante appunto questi 15 giorni di festeggiamento dei 50 anni della compagnia, addirittura già scrivendoci le domande e dicendoci cosa noi dovevamo fare, no? Quindi questa la dice lunga su che tipo di personaggio è, nel senso che lui voleva un film non su di lui, ma voleva un film su quello che lui chiama il popolo segreto, cioè questa sostenitori, questi fedeli, questa gente che in qualche modo, questi spettatori speciali che in questi 50 anni lo hanno accompagnato, che sarebbero venuti a Holstebro. Quindi il fuoco del film doveva essere su di loro. Mm-hmm. Poi in realtà abbiamo girato con grande libertà e con seguendo questo uomo di ormai quasi 80 anni nell'organizzazione di questi 15 giorni. Lui ha invitato questi ragazzini di strada dal Kenya, dal Brasile, da Bali, che insieme a lui hanno costruito questo grande spettacolo finale, e alla fine il film si è trasformato nel suo perpetuo moto in macchina, a piedi, che Eugenio Barba faceva nel circondario di Holstebro, proprio per andare a visitare queste comunità, questi gruppi di ragazzini e questi suoi rapporti quasi maniacali, addirittura su dove la gente si doveva sedere a tavola a cena, nel rapporto con lui, con la compagnia. Insomma, è stato, diciamo, un film abbastanza in diretta e on the road, che alla fine è stato un seguire lui per 15 giorni. Poi la grande costruzione, il grande lavoro che ha fatto Jacopo, che abbiamo fatto poi al montaggio, secondo me l'ha restituito proprio nella sua freschezza, senza tanti artifici e senza tante, come dire, fronzoli. Ecco, un film molto secco in realtà. Ecco, rispetto a quella sorta di impreparazione che dicevi nell'approcciare e poi questa esperienza, ecco, cosa ti ha portato rispetto a quello che avevi in testa e sentivi prima, che patrimonio ti ha lasciato questa avventura? Ma è un patrimonio, come ti ho detto all'inizio, di appunto di vedere che delle cose, a volte i sogni si realizzano, no? Sì, sì. Capire che il sogno di questo uomo e poi delle attrici e degli attori che lo hanno seguito in questa avventura abbastanza folle, perché Barba parte dall'Italia come migrante alla fine degli anni 50 dall'Italia del Sud, arriva in autostop in Europa del Nord, si stabilisce prima in Norvegia nel 64, dove fonda questo teatro con chi era stato rifiutato dai provini della Scuola Nazionale di Teatro Norvegese, poi finisce in Polonia da Grotowski per 2 o 3 anni, poi viene invitato da un sindaco postino con la quinta elementare danese di Holstebro, che un'infermiera vede un suo spettacolo e dice al sindaco: ma perché non invitiamo questo gruppo qui e lo facciamo stare, gli diamo una fattoria? Allora arriva, parte questa lettera, questo uomo decide di lasciare tutto, le attrici e gli attori lo seguono, fonda questo teatro. Insomma, è una storia, no, io ne dico soltanto una minima parte, ma sicuramente molto avventurosa ed è sicuramente una delle cose più affascinanti. Quello che io appunto me ne torno indietro con la consapevolezza che un sogno si può realizzare, che un rapporto con le istituzioni locali, ecco, una cosa molto interessante quello che sta succedendo adesso in Danimarca, cioè la Danimarca vive pure di mille contraddizioni. Da una parte è il paese che in questi giorni, l'altro ieri, chiude le frontiere, tra virgolette, all'arrivo dei profughi, perché adesso c'è un governo di destra, e nello stesso tempo però nelle periferie, dove ha sempre governato, diciamo, tra virgolette, la socialdemocrazia danese, è un paese appunto dove che in qualche modo ha aperto questo paesino minuscolo, ha aperto le strade veramente all'alterità, alla diversità, trasformando le scuole che lavorano insieme all'Odin, le scuole diventano il centro della vita comunitaria, della vita popolare, che sono aperte fino alla notte, questi ragazzini keniani, brasiliani che vengono ospitati nelle scuole del paese, una grande solidarietà e democrazia veramente partecipata, le parate dell'Odin che entrano dentro il comune proprio di Holstebro, col sindaco che viene preso da 5 persone mascherate da morte, balla insieme a loro, cioè ci stanno tante cose che quando le vedi dici: dove sono finiti? Nel paese dove gli alberi volano, ecco. E quindi questo è un po' quello che io poi mi sono portato a casa. Sì, sì, sì. Allora Davide, sei impegnato nelle riprese, poi speriamo di aver modo di parlare di questo tuo nuovo lavoro. Sì, sì. E questo invece... Siamo vivi, sì. Cosa dicevi? Non ho capito. se usciamo vivi, sì. Invece il paese dove gli alberi volano, se non sbaglio, uscirà in sala a gennaio. Sì. Quindi avremo modo anche di riparlarne. Sì, sì, spero anche un po' prima, però in linea di massima sì. Esce con una casa indipendente di distribuzione, che la Wanted, coraggiosa casa di distribuzione, che decide di distribuire un documentario sul teatro, che è una cosa che quando si sente cinema e teatro, come dire, non vanno tanto d'accordo insieme. Noi pensiamo che in qualche maniera abbiamo rotto pure un po' questo tabù. In realtà è un film molto godibile. Bene, bene. Molto pericoloso. Allora Davide, speriamo a presto, un abbraccio, un in bocca al lupo, ciao, per le nuove riprese. Ciao, ciao, ciao, a presto. Un abbraccio a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Davide Barletti, co-regista del documentario Il paese dove gli alberi volano, presentato alla 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia e in sala probabilmente a gennaio. Abbiamo in linea Antonello Sarno, regista del documentario Venezia Pop, l'arte in bianco e nero, che sarà in programmazione su Sky Arte HD quest'oggi. Antonello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, grazie. Intanto dici l'orario di programmazione del documentario. Il documentario andrà in onda su Sky Arte HD, come hai detto giustamente te, questa sera alle 21.10, e poi avrà una serie di repliche che verranno annunciate nel corso dei prossimi giorni. Ieri l'abbiamo presentato con grande emozione da parte mia a Palazzo Grassi, al teatrino di Palazzo Grassi della Fondazione Pinot, che è un po' il teatro alla scala dell'arte contemporanea. Per me, che faccio il giornalista di cinema e che avevo messo il naso dentro il mondo dell'arte contemporanea raccontando la storia della Biennale d'Arte, è stata un'emozione enorme, perché avevo paura dei logionisti, diciamo. Invece è andato molto bene, e la cosa più soddisfacente è stata che perfino le maschere del teatro si sono fermate a vedere il film, e questa è una cosa che quando succede vuol dire che ti è riuscito bene, diciamo. Venezia Pop, a partire dal titolo, insomma, un'impresa impegnativa. Raccontaci un po' dagli inizi. Ma diciamo che Venezia Pop è la storia della Biennale d'Arte, che è la manifestazione internazionale, l'esposizione artistica internazionale più antica e più importante del mondo. A differenza della Mostra del Cinema, che peraltro, come tutte le sezioni della Biennale, è una filiazione della Biennale d'Arti Visive, appunto, come le altre biennali, danza, architettura, musica, la Mostra del Cinema, al contrario della Biennale d'Arti Visive, ha un rivale, che è il Festival di Cannes, mentre invece la Biennale d'Arti Visive non ha rivale, è rimasta quella che era prima, la prima grande esposizione universale d'arte contemporanea. Ha tanti tentativi di imitazione, ma rimane un'eccellenza italiana, nonostante la politica molto spesso abbia tentato, senza riuscirci, di rovinarla, di rimpicciolirla, di metterci le mani sopra. La storia della Biennale è una storia veramente fulgida. Nasce nel 1895, quest'anno compie 120 anni, per iniziativa del sindaco Selvatico, che era appunto il sindaco di Venezia, che aveva fatto un giro per tutte le capitali europee capendo che era il momento di impiantare una esposizione universale, appunto, d'arte contemporanea. E poi tutto il periodo, cioè il periodo fascista, che è comunque un periodo ricco di artisticamente ricco di spunti, ai quali il regime non riuscì a mettere il bavaglio. Pensiamo dal futurismo in poi ai grandi maestri della prima metà del Novecento. C'è un momento molto forte come immagini, perché tutte le immagini sono dell'Istituto Luce, le abbiamo fatte commentare a quelli che la storia della Biennale l'hanno fatta, cioè i grandi critici, gli ex presidenti della Biennale e gli artisti che hanno preso il Leone d'Oro. C'è anche un cameo di George Clooney, che è un grande collezionista d'arte. Però, come dicevo, i due anni di Salò, la Biennale fu adibita a ospitare ciò che restava di Cinecittà, con il nome di Cinevillaggio, per realizzare due film di regime terribili. Si vedono questi gerarchi nazisti e fascisti durante quei due anni a girarsi spaesati per questi teatri di posa, che in realtà erano i padiglioni della Biennale, che sono tornati poi nel dopoguerra a essere tali. Venezia Pop perché nel 1964 irrompe il fenomeno del pop con la vittoria del Leone d'Oro e di Robert Rauschenberg, che poi spalanca la strada ai vari Andy Warhol, Roy Lichtenstein e quant'altri. Quindi è un fenomeno fondamentale, perché è la prima volta che, e poi da lì non se ne sono più andati, gli americani hanno messo naso nell'arte contemporanea, che fino a quel momento era un fenomeno essenzialmente europeo. Ci fermiamo al 1978 per il semplice fatto che da quella data più o meno poi i cinegiornali non sono stati più prodotti, perché la legge del cinema non ne finanziava più la produzione. Ne esce fuori un quadro molto completo, l'arte contemporanea è rimasta ancora quella che era stata già lanciata alla fine degli anni 70 con le grandi biennali del dissenso, per esempio di Carlo Ripa di Meana, che ovviamente è nel documentario. È rimasta ancora quel fenomeno larghissima industrializzazione dell'arte, quindi un fenomeno economico e non più soltanto un fenomeno artistico. Riusciamo a raccontare la nascita di questa tendenza, che oggi è imperante, perché fare i mercanti d'arte, i collezionisti d'arte, significa avere moltissimi soldi, un tempo significava solo avere molto gusto. Senti Antonello, ecco il sottotitolo, l'arte in bianco e nero, fa riferimento sicuramente al materiale d'archivio a cui avete certo attinto. Ecco, riusciva il cinema o comunque le riprese televisive a dare un'idea d'arte? Guarda, con mia grande, io ho fatto questa stessa domanda, l'ho fatta a tutti i grandi esperti, artisti, curatori della Biennale, da Monito Oliva, Germano Celan, Francesco Bonami, e poi gli artisti Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Marina Abramovic, Pistoletto, tutti Leoni d'Oro super insigniti e riconosciuti, e tutti mi hanno risposto che il bianco e nero per loro è la condizione ideale per studiare le opere d'arte. Molto spesso loro progettano in bianco e nero, addirittura Pistoletto ha esordito facendo una serie di opere in bianco e nero alla fine degli anni 60, Maurizio Mochetti mi dice la stessa cosa, è una rivoluzione. In realtà poi cos'è? Che noi molto spesso l'arte l'abbiamo studiata sui libri di testo in bianco e nero, che per tutto il Novecento l'arte è stata in bianco e nero, perché chi la studiava, chi la vedeva riprodotta in bianco e nero, in TV, al cinema e sui libri. Quindi devo dire che mi ha sorpreso sentire un elogio del bianco e nero, addirittura Cucchi con la solita provocazione che gli è consona dice che per lui esiste solo il bianco e nero per capire un'opera d'arte. Ecco, questo tipo di documentazione ha avuto il merito in qualche modo di diffonderla a livello più di massa come arte non d'élite? Sì, assolutamente sì, anzi c'è una rivalutazione da parte di Celant e di Bonami, che sono due ex curatori della Biennale e anche due grandissimi studiosi ed esperti d'arte contemporanea, che dicono sì, è vero, c'è stato un momento in cui perfino trionfava nei cinegiornali quel tipo di critica un po' becera che si sentiva nei testi che accompagnavano le immagini, un po' ma questo posso farlo anche io, no? Quando è trionfato l'astrattismo, nessuno capiva cos'era, però oggi vedi quanto in realtà anche un servizio ironico, a volte persino stressante, aveva però il compito in sé di informare, far vedere al pubblico come stavano cambiando le forme d'arte contemporanea, pittura e scultura soprattutto. Quindi comunque, essendo l'unico mezzo per diffondere queste immagini, andava bene anche quello. Prova ne sia che i figli di quel periodo, che siamo noi e sono anche i nostri figli, oggi stravedono per l'arte contemporanea. Ti sei fermato al 78 e hai fatto riferimento alla capacità di restare indipendente rispetto anche alla politica di Venezia, della Biennale. Assolutamente sì, perché la Biennale appunto nasce durante la monarchia e quasi subito arriva il fascismo che ci mette le mani sopra con i commissari governativi, per cui cosa succedeva? Che la Biennale molto spesso non intercettava i gusti e le tendenze del mondo, ma a causa di pressioni politiche era un commissario governativo che intercettava i gusti e le tendenze che piacevano al governo, che ce l'aveva messo. Sì, quindi sì. La differenza è fondamentale, Bonito Oliva la sottolinea molto bene. Devo dire che però appunto da dopo il 68, da dopo la grande rivolta del 68 in cui gli artisti accompagnarono gli studenti che protestavano sull'onda del maggio francese per cambiare lo statuto della Biennale e svecchiarla dalle norme fasciste che la regolavano, bisogna dire che questo è abbastanza cambiato, e se non è cambiato comunque sta cambiando radicalmente. Oggi non ci sono più commissari governativi, c'è un presidente della Biennale che è messo lì da un consiglio di amministrazione, indicato ovviamente da un ministro, e poi che nomina a sua volta i curatori. Devo dire che in questo senso Paolo Baratta e i suoi predecessori hanno fatto un ottimo lavoro. Ecco, in parte già hai accennato ai vari movimenti artistici. Volevo chiederti se la Biennale ha segnato alcuni passaggi in maniera fondamentale rispetto alle nuove tendenze dell'arte. Ma la Biennale, se pensiamo che nella Biennale del 72 Gino De Dominicis espose un mongoloide, un subnormale come opera d'arte, capisci quanto la Biennale sia stata vicina a tutto quel movimento di evoluzione che dal 68 in poi, ma faccio soltanto un esempio temporale, ne potrei fare altri, ha accompagnato l'evoluzione anche delle forme, delle estetiche del nostro costume. La Biennale non ha soltanto raccontato quell'esistente, la Biennale molto spesso l'ha anticipato, sì. Poi ovviamente ha avuto il merito di fare delle grossissime retrospettive, quella, non mi ricordo in quale Biennale, ma negli anni 50 forse la più grossa retrospettiva sugli impressionisti francesi mai fatta al mondo. Quindi secondo me la Biennale oggi è la casa della cultura, mm-hmm. È proprio la casa della cultura non solo degli italiani ma di tutto il mondo, e a testimoniarlo ci sono da punti di vista completamente diversi due star, una dell'arte come Marina Abramovic, che ha preso il Leone d'Oro alla carriera, se non sbaglio, 6 anni fa, e un'altra come premio Oscar, come George Clooney, che ogni volta che ci ha rivelato, ogni volta che vengo a Venezia, io vado più volentieri alla Biennale che al Festival del Cinema. Almeno lì non occorre rischiare di essere fischiato per qualche film, perché è lui che va a vedere le opere d'arte altrui. Tutto questo per dire che il racconto, per tornare alla tua domanda, il racconto che la Biennale fa dell'arte è il racconto delle forme di politica e di movimenti intellettuali che hanno caratterizzato la storia del nostro paese e anche la storia degli altri. Ripeto, il pop è il ritratto fedele dell'America dei primi anni 60, che si rivolge al consumo di massa nell'industria, riuscendo a farne una forma d'arte. Tutti ricordiamo il logo della zuppa Campbell rifatto da Andy Warhol, ed era una zuppa di pomodoro. Sì, sì, sì. Antonello, in chiusura, oltre a questi passaggi televisivi, ci sarà un altro tipo di fruizione per il tuo documentario? Sì, l'Istituto Luce Cinecittà, che lo ha prodotto, lo farà uscire in DVD, credo entro Natale, quando cioè si esauriranno i passaggi televisivi. Abbiamo diverse richieste per esporlo, per presentare il film in altrettanti musei internazionali. Adesso vediamo come ci attrezzeremo. Non mi aspettavo una risposta, peraltro non siamo neanche nel calendario del Festival di Venezia. L'abbiamo presentato appunto a Palazzo Grassi perché ci hanno invitato lì e non potevamo rifiutare, perché appunto, come dicevo in apertura, è il tempio dell'arte contemporanea più lussuoso, più snob e soprattutto meno accessibile. Non ci aspettavamo che avrebbero chiesto il nostro film, e quindi dopo questa partenza bruciante, dopo i passaggi su Sky andremo credo in diverse rassegne internazionali e poi, come dicevo, usciremo in DVD. Bene, io ti ringrazio, un abbraccio, e magari alla prossima. Grazie a voi. Ciao Antonello. Ciao. Antonello Sarno, regista del documentario Venezia Pop, l'arte in bianco e nero, su Sky Arte HD questa sera, 10 settembre. Ed eccoci a parlare del documentario sulle tracce dei ghiacciai, missione in Alaska. Ne parliamo con Federico Santidi, ma anche con Tommaso, giusto? Sì, giusto, siamo qua. Siete in viva voce, per cui ci sentite tutti e due. Allora, i due registi di questo documentario, mi ricordo che abbiamo parlato di una parte di questa lunga avventura per quanto riguarda la missione in Caucaso. Raccontateci un po' allora di questa esperienza e come nasce intanto il progetto. Allora, il progetto è un progetto di un fotografo alpinista che praticamente va a ricercare gli stessi punti di vista delle vecchie foto degli antichi esploratori e rifà la stessa inquadratura, in modo tale da poter vedere quanto nel corso degli anni si sono modificati i ghiacciai. E naturalmente il risultato è quasi sempre negativo, cioè si sono ritirati molto in questi 100 anni. Senti, si tratta di vari ghiacciai in giro per il mondo e raccontiamo anche un po' quali sono state e quali saranno le tappe. Allora, le tappe sono state, la prima spedizione era in Karakorum, quindi in Pakistan, la zona del K2, dopodiché sono andati in Caucaso, e la terza spedizione, quella diciamo nel documentario realizzato da me e Tommaso, siamo andati in Alaska. Sono previste altre tappe o si ferma qui? Sono previste altre tappe in Patagonia, in un'altra zona dell'Himalaya più ad est, e poi per finire sarà sulle Alpi, le nostre Alpi italiane. Bene. Allora, intanto devo dire che fa impressione sicuramente questo parallelo tra le foto in bianco e nero dei primi esploratori e quelle che avete realizzato voi proprio in merito alla sparizione dei ghiacci. Beh, sì, diciamo la cosa che funziona molto è che salta all'occhio, no? Questa grossa differenza, per cui si capisce quanta massa di ghiaccio è persa. E naturalmente quella è anche una riserva di acqua potabile, per cui oltre insomma il cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari è tutto legato, ma perdiamo anche un grosso bacino di acqua potabile. Senti Federico, per anche quello che mi raccontavi a margine della presentazione del film quest'estate a Festambiente e anche quello che si vede nelle immagini, mantiene comunque questo tipo di spedizioni, mantengono uno spirito avventuroso rispetto anche alle immagini dei primi viaggiatori, ecco, nonostante i tempi siano cambiati, abbiamo molte più agevolazioni rispetto agli spostamenti, comunque quello spirito in parte si mantiene per questo tipo di viaggi. Sicuramente si mantiene, anche perché noi oggi abbiamo più strumenti rispetto agli esploratori di 100 anni fa, sicuramente, no? Abbiamo dei GPS, abbiamo strumenti elettronici, però quei punti fotografici non erano stati segnati, o comunque non sempre, molto raramente sono stati segnati, per cui noi dobbiamo ritrovare il punto andando un po' a braccio, cioè vedendo l'inquadratura della foto e cercando di ricostruire la stessa inquadratura. Non è sempre semplice perché, e questo salta all'occhio soprattutto nel documentario dell'Alaska, l'ambiente è molto cambiato, per cui hai proprio dei riferimenti diversi, ne è cresciuta la vegetazione, spesso proprio anche raggiungere gli stessi posti che prima era più facile, perché magari appunto il ghiaccio arrivava più in alto e c'era meno vegetazione, invece adesso è molto più complesso orientarsi a vista in queste zone. Ecco, rispetto a questi cambiamenti, questo abbassamento dei ghiacci ha portato anche a differenti e nuove forme di vita, e questo lo avete proprio toccato con mano in Alaska. Ma sicuramente, sono Tommaso. Ecco. Ciao Tommaso. Piacere. Sicuramente quello che è molto interessante è quello che racconta un po' la storia, nella particolarità del documentario dell'Alaska, è proprio questa evoluzione che noi abbiamo cercato di mettere anche in maniera narrativa, nel tessuto narrativo del documentario, e questa evoluzione dell'ambiente nel momento in cui il ghiacciaio ritira e quindi lascia di fatto spazio alla natura, soprattutto perché l'Alaska le zone dell'Alaska che abbiamo esplorato sono a livello del mare. Questo fa sì che tutta una serie di forme di vita tornano a popolare quell'ambiente. Mm-hmm. Ecco Tommaso, una domanda che feci quest'estate a Federico rispetto alle politiche amministrative, le autorità come si muovono in senso di preservare la natura e comunque limitare i danni in qualche modo connessi al ritiro dei ghiacci. Ma la domanda è, diciamo che poi varia insomma da nazione a nazione, sì. Ognuno le affronta insomma come una priorità o meno. Sicuramente adesso il cambiamento climatico è stato preso insomma come una realtà ormai provata. Per cui delle politiche ci sono, a mio avviso sono sempre abbastanza timide, perché si dovrebbe pensare un attimo ripensare un po' la vita consumistica che facciamo soprattutto in Occidente. Questo cambiamento radicale io perlomeno non lo vedo. Non in un'idea di decrescita tra virgolette, ecco, che secondo me sarebbe un po' la strada da percorrere. Sicuramente sono state trasformate alcune priorità in, come dire, gli è stato dato un valore economico e quello fa da motore trainante, ecco. Oh, nonostante questo, e questo in parte si vede anche nel documentario, c'è una diversa presa di coscienza e sensibilizzazione a livello di gente comune rispetto alla questione, no? Beh, sicuramente sì, adesso insomma prima si parlava anche molto di più di negazionismo, c'erano anche molte più teorie che servivano anche a mettere in dubbio soprattutto le cause. Direi che adesso forse è ora di mettere un attimo da parte la discussione sulle cause e forse cercare di pensare a come fare per ridurre al minimo questo impatto. Cioè diciamo il posticipare sempre la quantità di gradi che dobbiamo contenere sicuramente non aiuta. Siamo passati dai 2 gradi di Kyoto ai 4 gradi. Basta pensare che il cambiamento che si vede nel ghiacciaio è stato un cambiamento dovuto a una variazione media di 0,5 grado centigrado, e già questo insomma la dice lunga. Sì. Tommaso, in chiusura, dopo i passaggi nei vari festival, ci sarà modo di vederlo? Non so, ci sarà una forma distributiva in sala, dei passaggi televisivi o un'uscita in DVD o qualcosa del genere per il vostro documentario? Ma sicuramente in questo momento stiamo cercando di raccogliere attraverso i festival quanto più interesse possibile. Un interesse molto concreto viene anche dall'estero, in particolare dai paesi che stiamo girando i festival, quindi il Nord America, che ha visto l'anteprima del film al Festival di Washington, è un interesse al momento dal Film Board del Canada. Speriamo in un interesse anche da parte della Germania e dell'Austria, che sono i prossimi appuntamenti come festival, e nel partecipare al Festival di Cinema Ambiente di Torino e anche a quello di Sondrio nel prossimo mese siamo fiduciosi che anche a livello nazionale si faccia avanti un acquirente per poter avere una distribuzione principalmente televisiva, visto anche il formato del documentario di 50 minuti, ed eventualmente anche studiare una possibile formula magari con Legambiente, che ha apprezzato molto il film, in sale o in situazioni che possono essere legate ad iniziative dell'associazionismo. In chiusura, ci lasciate dei riferimenti internet per saperne di più? Sicuramente ci sono tutte le informazioni che riguardano il progetto sul sito Sulle Tracce dei Ghiacciai, il sito della missione, il sito macromicro.com, che è il sito del fotografo Fabiano Ventura, e fabianoventura.it. Inoltre sul sito della SD Cinematografica, quindi Savona Domodossola Cinematografica, che è appunto sdcinematografica.com, potete trovare tutto quello che riguarda il documentario. Bene, allora io vi ringrazio, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Viva il lupo. Grazie. Viva il lupo. Ciao. Federico e Tommaso, registi del documentario sulle tracce dei ghiacciai, missione in Alaska. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Visto che l'abbiamo realizzata martedì, l'intervista a Valerio Mastandrea la mandiamo in forma registrata e stiamo parlando del film Non essere cattivo di Claudio Caligari, il terzo e ultimo film purtroppo di Claudio Caligari, che è scomparso qualche mese fa in fase di montaggio. Valerio Mastandrea ne è stato tra i produttori. Questa è la chiacchierata che abbiamo realizzato due giorni fa in diretta sempre da queste frequenze. Valerio, ci sei? Sì, oh. Sì. Mi pare di sì. Mi pare di sì. E allora, intanto ben ritrovato. Ne avevamo un po' accennato quest'estate nell'ambito dell'arena estiva dell'America Occupato, perché stavamo lanciando la serata con Amore Tossico, tra l'altro partecipatissima. E stavolta parliamo di questo film che Claudio Caligari è riuscito a terminare e se n'è andato, purtroppo, credo era in fase di montaggio il film. L'aveva finito di montare, nel senso aveva fatto una prima stesa e una seconda, avrebbe continuato sicuramente a lavorare, poi insieme al suo montatore, che insomma è un suo uomo di grande fiducia, anche mi ci metto pure io, anche se di fiducia verso di me ce n'aveva un po' di meno, siamo riusciti a completarlo, insomma. Sì, comunque non l'ha visto finito, diciamo, questo è l'unico rammarico anche di questi giorni veneziani pieni di passione, di consenso, che non è poi quello che cercavamo. In realtà ieri ci abbiamo avuto questa proiezione, io la chiamo finale, ma è anche quella che dà l'inizio poi alla vita vera del film. Perché ricordiamocelo sempre, che i film noi li facciamo perché vengano visti, certo, e non per farci poi i compiti da soli o per discuterne a casa, capito? Senti, ecco, a proposito di Venezia, che impressioni da questa trasferta rispetto al film? Oggi è il giorno quello dell'emozione, quella a freddo, anche se poi emozioni fredde non lo sono mai, cioè ieri è stata una giornata devastante, che a me mi sembrava che sia passata una settimana, invece era solo ieri, però abbiamo parlato del film tutto il giorno, la mattina, la sera. Poi c'è stata questa proiezione molto emozionante e oggi sono usciti i giornali e qui abbiamo letto tutte cose molto, molto interessanti, non solo belle, cioè anche quelle meno belle che io non ho letto, non so se ce ne sono, però ripeto, non era il consenso che volevamo, ma che questo film venisse capito, e questo film l'hanno capito in tanti, e tutti quelli che insomma di lavoro cercano di capire i film, ma e speriamo pure che il pubblico insomma abbia una, non perché Claudio non c'è più, proprio perché è un film di Claudio, e siccome i film di Claudio sono pochi, ma sono uno di noi, ne continua a parlare anche dopo 20 anni, spero che questo lo vedano in tanti e faremo così tra 20 anni, appunto. Senti, per chi ci ascolta e vuole andare a vederlo, come lo racconteresti in due parole? Difficile, ieri sta domanda me l'hanno fatta ogni 10 minuti, perché sai, ci sono gli slot di intervista e durano 10 minuti e uno cerca sempre adesso originale no, noi ce la possiamo prendere anche più comoda, No, ma sono io il problema, non sono mai domande, capito? È la risposta. Questo è, allora, Claudio ha fatto 3 film, sì. In 3 film ha raccontato anni 70, anni 80 e anni 90, una sorta di cinematografia più omologata, non solo cinematografia, anche la letteratura e tante cose. Se racconti questi 3 decenni del nostro paese, ti viene automaticamente che raccontare nel 70 anni di piombo, negli anni 80 non lo so, lo yuppismo eccetera, nel 90 non so cosa, perché gli anni 90 sono forse ancora vicini per poterne avere una distanza tale da affrontarla senza giudizio e senza, no? Sì. E invece Claudio negli anni 70 ci ha raccontato quella banda che reclamava un posto anche per sé all'interno dello strato sociale più alto. Negli anni 80 ha raccontato l'eroina in una maniera, diciamo, forse unica. Qui ci sono un sacco di registi internazionali con cui parli e che ritengono che Amore Tossico sia l'unico film sull'eroina che ha un valore, insomma, quasi da non poter mai più fare un film sull'eroina. Negli anni 90 lui ha raccontato una storia molto classica, affrontando un tema che il cinema affronta da sempre, che è quello dell'amicizia tra uomini, ma non c'entra l'essere uomini. Qui si parla di un'amicizia che va oltre il concetto stesso d'amicizia, è un amore asessuato e profondo tra due ragazzetti, due furie, due belve intese come assatanate di vita e di velocità con cui vivere la propria vita, che vivono l'avvento e il cambiamento del concetto e dell'assunzione delle nuove droghe, che hanno sparigliato dal momento in cui sono diventate droghe accessibili a ogni categoria sociale, e in un contesto sociale appunto in cui il territorio dove vivono cambia e comincia, non voglio dire cazzate perché poi non sono sociologo io, però comincia ad assumere i toni dello stare bene, no? Quel decennio lì inizia, quel decennio in cui stare bene significa lavorare, avere una casa, potersi permettere un mutuo, eccetera. E loro vengono, questa amicizia così pura viene stritolata da questo insieme di cose, e essendo loro poi la stessa persona, sono due parti della stessa persona, cercano di salvarsi l'uno con l'altro, perché poi uno non ce la fa, l'altro sembra di sì. È una storia molto, molto attaccata a una pippa, ma in realtà è molto più semplice di così, stiamo cercando di argomentare, sì, però sì. È una storia semplice, pura, piena d'amore e piena di rabbia, e quando la rabbia costruisce qualcosa, e questo film alla fine qualcosa forse la costruisce, sia a livello cinematografico, anche a livello di contenuti, quando la rabbia è così, cioè riesce a collocarla a un valore quasi pari a quello dell'amore. Ho avuto la fortuna di vederlo nella presentazione alla stampa, Valerio, nella scena iniziale c'è un richiamo ad Amore Tossico, e quindi come negli anni 80 torna il discorso sulla droga, droghe diverse, ma sembra riprendere in mano un discorso dove si era cominciato l'altro, e come se rispetto al discorso sulla droga il cerchio sia destinato a ripetersi, tutto come in un ciclo. Sì, la ciclicità, non dico della droga ma degli eventi, anche sì. La storia dell'insegna è sempre, insomma, esiste. Cambiano i parametri, cioè il famoso 2.0, no? che non è una droga migliore, ma il fatto che comunque le droghe sintetiche hanno, adesso anche qui non sono un esperto di droghe e territorio, però hanno completamente, l'ho detto prima, sparigliato la collocazione sociale, no? Certe droghe erano dei poveri, certe droghe erano dei ricchi. Il fatto che adesso con le droghe sintetiche, adesso da allora in poi, insomma, il consumo è totale, è diventata realmente un'arma di distruzione di massa. E poi ci sono certe categorie sociali che magari hanno strumenti diversi, perché proprio questo, di questo parla, ha sempre parlato nel suo cinema, no? Lui si è sempre concentrato a raccontare, era interessato a raccontare latitudini umane di un certo tipo, e l'ho sempre fatto con un rigore e in una maniera, diciamo, alla Pasolini, ma anche se è una cosa che non si deve dire, perché insomma le cose sono diverse, però lui si è sempre sporcato le mani prima di raccontare le cose, l'ha sempre conosciuto, non l'ha mai fatto da casa, a telefono, online, e lui ha sempre raccontato questa sfera sociale qua, e quanti danni l'idea di potere possa fare su questo tipo di persone, in cui i valori sono sempre molto, molto forti, cioè l'amore provato dai personaggi di Claudio è un amore diverso da quello provato, che ne so, da gente che ha altri strumenti economici, culturali, eccetera. E quindi lui è la droga, per lui è, secondo me, la cartina di tornasole. Torna sempre nei suoi film, anche se nell'Odore della notte non c'era, c'era l'adrenalina della violenza, che potrebbe essere paragonata a una dipendenza comunque, però questo gli interessava, e questo film racconta. Tra l'altro si stavo ripensando anche a Ostia, che torna anche in questo film, in Cesare il protagonista, che torna anche in questo film. Insomma, è proprio veramente un eterno ritorno. Allora, tu avevi partecipato al progetto del suo penultimo film. Volevo chiederti, Valerio, quali sono stati gli elementi che ti hanno portato ad abbracciare quest'ultimo, purtroppo ultimo progetto di Claudio? Allora, intanto diciamo che l'ultimo progetto non l'abbiamo mai pensato che fosse l'ultimo, neanche Claudio, anche a un mese prima di salutarci, continuava a parlare delle sue cose, e le sue cose ci sono ancora, e cercheremo di rimetterle in piedi, che non saranno cose sue, ma saranno cose col suo spirito, e cercheremo sì. Magari di trovare anche qualcuno che ha lo stesso coraggio e la stessa determinazione di Claudio. Questo lo dico così, per certo. Dico a voce alta, è un pensiero. E a me mi ha portato il fatto che conosco Claudio dal 98, l'ho visto soffrire talmente tanto per non poter esprimersi col cinema che voleva fare, che non è altro che cinema, non è che è il cinema suo, ha le sue caratteristiche, ma è cinema. Che abbiamo sempre pensato di lavorare insieme, di fare, abbiamo tirato su cose, poi sono cadute, lui ha tirato su da solo, sono cascate con quelle, insomma alla fine è arrivato sto film che era talmente potente che ho detto proviamoci, dai. Proviamoci anche stavolta, io ho fatto il mio e l'ho potuto fare soltanto stando insieme a persone che sono salite a bordo di questa storia in una maniera quasi da brigata, cioè è proprio stata una cosa molto naturale, persone mi venivano a cercare sapendo so che stai per cominciare a cercare i soldi per caos, ti do una mano, ti accompagno io, ma pure ti accompagno col motorino, no? Dentro le stanze del potere. E alla fine si è creata una commistione di persone e di utenti talmente forte che ce l'abbiamo fatta a metterlo sul set. E sul set lui ci ha deliziato della sua più grande espressione d'amore nei confronti del lavoro che facciamo. E vabbè, insomma, noi abbiamo fatto molto per lui, ma lui ha fatto un po' di più per noi. Ce ne accorgeremo magari fra un po', non adesso, però così è. Valerio, da oggi nelle sale che tipo di distribuzione avete pensato e state realizzando? Se la potevamo pensare da soli era diverso, ma c'è una distribuzione che distribuisce la Good Film, che è una casa di distribuzione che ha creduto molto in questo film e ci crede e ci continua a credere. La distribuzione sarà totale, le cose sono poche, ma va bene così, nel senso che cominceremo così, quindi questa settimana è fondamentale per andarlo a vedere e per far sentire che la gente lo vuole vedere. A Roma sarà in 8-9 sale, non lo so adesso questo, Federico, però bisogna andarci sti giorni, ecco, questo bene. Non l'ho mai detto manco per film mio una cosa del genere, devo essere sincero. Ho sempre detto, quando mi facevano le domande, di alla gente di andare in sala, faceva beh, se vuole bene, se no uguale, invece no, qua ci tengo non perché mi entrano dei soldi, figurati. Ma perché va visto sto film, ecco. Valerio, io ti ringrazio. Non essere cattivo, da oggi nelle sale un tributo importante per Claudio Caligari, e ci sentiamo presto, spero dai un abbraccio bene. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Bene, questo era Valerio Mastandrea nella intervista che abbiamo realizzato l'altro ieri, perché oggi era impegnato, e con questo passiamo al prossimo ospite, che è Raffaele Inno, co-direttore della quinta edizione del Roma Creative Contest, festival di cortometraggi itinerante Under 30 dal 13 settembre al 4 ottobre prossimi. Raffaele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ci racconti di questo festival giunto alla quinta edizione, ma di cui è la prima volta che ci occupiamo. Sì, il festival alla quinta edizione, siamo in partenza, domenica 13 c'è la prima data di proiezione al Teatro Vittoria alle ore 20:30, e sarà la prima di tante date di proiezione, ma anche di incontri e attività fuori concorso che si concluderanno poi il 4 ottobre sempre al Teatro Vittoria. Senti, quali sono i criteri per la selezione che avete operato per questa edizione? Beh, la selezione viene effettuata da un gruppo di ragazzi che fanno parte dell'associazione culturale, e quest'anno abbiamo selezionato oltre, abbiamo visionato oltre 1600 corti per selezionarne il concorso 23. E di qui in poi ovviamente il giudizio per decidere quali corti vinceranno viene passato alla giuria, una giuria di professionisti che poi premierà i migliori cortometraggi. Senti, visto che va avanti per più di due settimane, come è strutturato il festival rispetto alle proiezioni? Il festival ha delle quattro date di proiezione al Teatro Vittoria alle domeniche, sì, quindi questi appuntamenti domenicali la sera alle 20:30, e poi ci saranno due iniziative, due giornate diciamo extra, che saranno una il 19 settembre al Maxi, una giornata intera di incontri, di workshop, di fotografia, di suono, di regia. Ci sarà un'iniziativa molto importante che è lo Screenplay Contest, questo concorso per sceneggiatori che abbiamo inaugurato quest'anno, quindi avremo circa 200 partecipanti che 19 verranno a scrivere un cortometraggio di 3 minuti su una traccia che gli verrà data la mattina stessa. E il cortometraggio migliore verrà poi realizzato da noi, dalla nostra associazione culturale. E poi il 25 alla Città dell'Alta Economia invece ci sarà un concerto, inizieremo la sera alle 8:30 e finiremo poi in tarda notte. Raffaele, più di 30 lavori che saranno presentati, ecco, volevo sapere se ci sono argomenti ricorrenti nei lavori che avete scelto. No, non c'è un tema ricorrente, sono cortometraggi tutti molto diversi, provengono da tantissimi paesi diversi, e quindi diciamo un genere ricorrente non c'è. La programmazione è molto varia, però è molto, molto piacevole. Quindi invito tutti quanti a partecipare a queste serate di proiezione che faremo al Teatro Vittoria di domenica. Senti, ecco, rispetto al materiale visionato, che impressione ti sei fatto rispetto ai giovani, nuovi autori e anche a questo formato, il cortometraggio? Sì, noi abbiamo notato che comunque il fermento è sempre tantissimo, ogni anno ci vengono delle opere originali e notiamo sempre che ci sono, insomma, degli autori validi da sostenere. E quello che manca è sicuramente magari un supporto, perché queste opere, diciamo, più piccole riescono ad arrivare anche agli occhi del grande pubblico, motivo per cui noi quest'anno abbiamo incentivato anche un pochino la produzione di cortometraggi che non avessero un timing troppo lungo, che si, insomma, marginassero nei limiti di 3 minuti, anche perché può essere un formato che può essere facilmente poi trasportato, che ne so, al cinema per aprire magari le proiezioni dei lungometraggi, quindi è un pochino anche un progetto che stiamo mandando avanti per rivalutizzare il cortometraggio. Ecco, proprio rispetto al cinema, ci sono margini in questo senso per avere dei cortometraggi che portino alla proiezione poi del film? Molte di queste iniziative poi dipendono un po' dalle scelte degli esercenti, però in generale l'idea e proporre un progetto un pochino più ampio che restituisca questo tipo di respiro anche ai cortometraggi. Quindi secondo me ci sono dei margini per riuscire in qualche modo a portare i cortometraggi al cinema, magari in apertura dei lunghi. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Assolutamente, il nostro sito è romacreativecontest.com. C'è una pagina Facebook dove aggiorniamo continuamente con le news e con le date delle proiezioni del festival. Ricordo che la prima è il 13 settembre, quindi domenica prossima al Teatro Vittoria, e vi aspettiamo numerosi. È prevista anche la presenza degli autori? Sì, è prevista la presenza degli autori, soprattutto ovviamente gli autori italiani, quindi insomma saranno serate poi, oltre che di proiezione, anche di confronto con i registi che hanno presentato le opere in concorso. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille. Ciao Raffaele, ciao. Arrivederci. Raffaele Inno, co-direttore della quinta edizione del Roma Creative Contest, festival di cortometraggi itinerante Under 30, dal 13 settembre, domenica, fino al 4 ottobre. Torniamo al Festival di Venezia per incontrare Simone Isola, che è regista del documentario Alfredo Bini, ospite inatteso, presentato proprio alla mostra d'arte cinematografica. Simone, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Chi è Alfredo Bini per chi è all'ascolto? Alfredo Bini è stato uno dei più importanti produttori italiani degli anni 60 e 70, che ha lanciato per Paolo Pasolini, ha prodotto anche una parte dei film di Mauro Bolognini che in quegli anni aveva una posizione importante e strategica all'interno del mondo della produzione cinematografica italiana. E quindi diciamo in quegli anni era stata una delle figure produttive in Italia più rilevanti. Com'è nato l'interesse verso questo personaggio e poi l'idea di farne un lavoro documentario? Sì, io in realtà ho fatto una ricerca per lui, perché all'epoca una ricerca universitaria su di lui un po' di anni fa, e l'ho conosciuto poco prima che morisse. Ho scoperto la sua storia straordinaria. In realtà, oltre ad avere una personalità unica in quanto un personaggio esplosivo ancora in veneranda età, purtroppo negli ultimi anni aveva avuto delle grosse difficoltà economiche e quindi si era trovato in condizioni di disagio economico, e una persona, Montalto di Castro, dove lui si trovava casualmente, ha deciso di ospitarlo nel 2000 e senza sapere poi chi fosse, solo perché era una persona anziana in difficoltà, e l'ha ospitato per 10 anni praticamente, sostenendolo economicamente. Questa persona poi è diventata, diciamo, le sue erede universale, lui l'ha sepolto accanto ai genitori, e poi nel corso degli anni ha capito chi era questo ospite in attesa. Infatti il film si chiama Alfredo Bini ospite in attesa, perché ecco, è un ospite in attesa, nel senso che è stato poi ospitato da quest'uomo per tutti quegli anni casualmente, e con lui ha scoperto quest'uomo che si chiama Giuseppe Simonelli, il grande cinema degli anni 60, Pasolini, Bonognini, anche un po' una storia del cinema italiano, no? Della sua ascesa e poi anche del declino, perché è abbastanza emblematica da quel punto di vista. Quindi niente, ho utilizzato questo incontro da queste due persone casuali per raccontare la storia di questo grande produttore. Senti Simone, rispetto ecco agli anni 60, che sono stati un po' il punto più importante del suo lavoro da produttore, ci sono stati dei film che comunque hanno segnato un'epoca? Di Alfredo Bini sicuramente. Alfredo Bini dall'esordio di A Cattone di Pasolini, che è stato eccezionale, o al Bell'Antonio. Pensiamo che il film d'esordio, il primo film che ha prodotto, è stato il Bell'Antonio. Film censurato, progetto osteggiato dai ministri, ma il film racconta appunto una personalità estremamente folle, nel senso che Alfredo aveva un carattere incredibile, grazie a quel carattere assolutamente particolare che è riuscito a realizzare poi dei film meravigliosi e a fare soprattutto dei film scomodi, perché il Bell'Antonio si parla di impotenza in Sicilia negli anni 60, nel 1960 è stato prodotto il film, insomma era un tema difficile, aveva ricevuto delle pressioni, poi al primo film, insomma il produttore che al primo film decide di fare un progetto che era stato abbandonato dai più grandi produttori dell'epoca perché appunto rischioso, scomodo tra virgolette, no? E invece lui l'ha fatto e ha esordito in quel modo. Il film con Mastroianni e la Cardinale si rivelò un successo straordinario. Ecco, quello è l'esempio di una personalità che amava il rischio, e anche di un'industria cinematografica che oggi non esiste più, no? Un cinema che non esiste più, in cui appunto c'era la possibilità per persone coraggiose di rischiare, di mettersi appunto di affrontare delle sfide complicate, che però appunto si riusciva a trovare un pubblico che poi poteva anche rendere queste scommesse vincenti, cosa che oggi è diventata difficilissima, no? Però basta citare Uccellini, A Cattone, Bell'Antonio, La Mandragola, insomma molti grandi film degli anni 60 sono stati prodotti da lui, e la sua fine dolorosa e un po' triste, diciamo melanconica, ecco, ne accresce la grandezza quasi, no? Almeno nella memoria, insomma è giusto forse che il cinema italiano riscopra questa figura, perché soprattutto a 40 anni della morte di Pasolini, quest'anno c'è questo anniversario, di scoprire il produttore che l'ha sostenuto, l'ha aiutato, è stato anche un confidente, una persona che insomma le ha permesso di realizzare quelle opere che oggi vengono poi celebrate un po' in tutto il mondo, no? Sì, quindi sì. Questo era un po' lo spirito del mio lavoro. Ecco, dicevi di un carattere determinato, di un pizzico di follia e del coraggio. Ecco, qual era la sua idea di cinema? Lui aveva un'idea di cinema abbastanza particolare, soprattutto che è molto chiara nel documentario, cioè nel senso che lui credeva, e ha creduto fino alla fine tra l'altro, che il cinema di qualità e d'autore potesse avere delle grosse potenzialità commerciali se gestito in un certo modo, nel senso creando dei prototipi di altissimo livello, Quindi secondo lui l'unico modo peraltro per contrastare il grande cinema americano e straniero era quello di creare dei prototipi di grandissima qualità, e questo modo poteva, questi film magari non avrebbero incassato tutto subito, ma sarebbero stati dei long seller, cioè negli anni avrebbero mantenuto un valore più alto rispetto ai film commerciali. Mm-hmm. Che era un'idea appunto che poteva sembrare, oggi può sembrare molto può sembrare un'utopia, ma all'epoca lui l'ha messa in pratica e ci è riuscito, perché tutti quanti i film di quegli anni, dal 60 diciamo al 68, sono film che ha registrato dei grandi incassi. Basta pensare ai film di Pasolini, che al Vangelo secondo Matteo, che era un film che ha incassato moltissimo, è stato venduto in tutto il mondo. Sì. Alla Mandragola, che addirittura prese le nomination agli Oscar, a Edipo, cioè al Bell'Antonio, alla Viaccia di Bolognini con Jean-Paul Belmondo e la Cardinale. Stiamo parlando di film che avevano un'altissima qualità artistica, però erano dei film commercialmente rilevanti. Mm-hmm. Anche perché lui metteva sempre un po' di scandalo in ogni progetto, era anche quello che creava, che devo dire, anche, utilizzava anche questa attesa impropria da parte del pubblico, no? Sì. Anche con Pasolini per solleccarlo un po', e quindi i risultati arrivavano. I film che ha prodotto sono eterni, secondo me rimarranno per sempre come patrimonio culturale proprio italiano. Quindi. Ed è curioso che una figura del genere appunto si sia ritrovata anche per errori propri, anche per quel carattere di cui giustamente accennavamo prima, si è trovato poi a vivere negli anni di crisi del cinema italiano anche una crisi personale, forse era quasi inevitabile, no? Quindi sì, questa sì, è un po' la parabola che ho cercato di raccontare. Ed è bello perché tutto passa attraverso una giornata che io trascorro con questo erede, questa sorta di benefattore, ma io non lo chiamerei così, perché poi, come dice lui nel film, è più quello che ha dato Bini a lui di quello che lui ha dato a Bini, no? Perché l'ho immaginato come, non so, un pezzo della cultura italiana, perché che è arrivata in un piccolo paese della Maremma laziale e ha sedotto questa persona, lo ha affascinato, e secondo me è anche un segno di come il cinema degli anni 60 è un parte del patrimonio culturale nostro, può essere seducente anche per chi non lo conosce, no? Può essere interessante da riscoprire sicuramente. Sì. Ecco, Simone, in parte hai già risposto parlando insomma di come hai realizzato il tuo documentario, e oltre a questa giornata trascorsa con questa persona, ci hai fatto anche utilizzo di materiale d'archivio? Sì, ce n'è moltissimo. Il film infatti è realizzato anche con Cinecittà Luce, che lo distribuisce, c'è tutto un materiale di repertorio, c'è un materiale di repertorio inedito che fa parte proprio di che ci ha lasciato Alfredo, c'è le Teche Rai, ci sono moltissime immagini, foto, film, c'è un ricchissimo materiale di repertorio, ci sono le interviste originali che ho realizzato a Bernardo Bertolucci, a Claudia Cardinale, quelle sono state realizzate da me, insomma, e in parte sono anche delle cose che ci ha lasciato Alfredo e altro materiale che proviene dai migliori archivi che ci sono poi in Italia e all'estero. Questo per anche perché il film, insomma, è un lungometraggio molto ricco di materiale anche diverso, no? Sì. Quindi anche quella ha una sua cifra stilistica, che non, insomma, i materiali ce ne sono diversi, più disparati, quindi ho utilizzato tutto quello che poteva essere utile per fare un ritratto più sincero possibile. Infatti chi l'ha visto questi giorni, insomma, ha riconosciuto che non è un santino, nel senso che non è una cosa che idealizza questa figura, ma ne mette in mostra anche i difetti, no? Cioè ad esempio la passione smodata per le donne, oppure appunto il fatto di avere questo carattere molto forte, autoritario, difficile. Insomma, ho cercato di fare un ritratto un po' a tutto tondo di questo personaggio, perché credo che in quel modo si comprendono anche la sua grandezza produttiva, ma anche la sua parabola umana, ecco. Questo è il discorso. Sì. Senti Simone, dopo Venezia arriverà anche al grande pubblico? Sì, il film era distribuito da Luce, adesso abbiamo messo a posto questi giorni, abbiamo parlato anche questi giorni del futuro del film. Sicuramente il film circolerà, ci saranno delle proiezioni nelle città italiane, evento, verrà distribuito alla Luce come documentario, insomma, quindi con non credo con una tenitura, ma con delle proiezioni ad hoc nelle varie città italiane, le maggiori città italiane, e faremo moltissimi, sicuramente andrà in altri festival, ce ne sono già alcuni in programma che si sta definendo in questi ultimi giorni, insomma io lo accompagnerò il più possibile perché fa molto piacere che si scopra questa figura e che sia l'inizio di una riscoperta di questo personaggio che credo sia abbastanza unico nel panorama del cinema italiano. Ti ringrazio Simone, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Simone Isola, regista del documentario Alfredo Bini, ospite inatteso. E con lui terminiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta e sulla trasmissione basta visitare il sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza ma anche in streaming sull'home page del sito c'è Ascolta la diretta e poi sia sul sito che sulla pagina Facebook carichiamo in podcast tutte le puntate che possono quindi essere riascoltate in podcast.